Thank you. my side.

Sta di cambiare il pensiero sbagliato, se mente oramai soffocata. Zizzania gettata nel fuoco sarà. Abbandonarsi a musica.